Il macellaio di Hama, i soldi sporchi, la Siria e l'Europa. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Le procès de Rifat al-Assad pour Bien Malaki s'ouvre ce lundi à Paris. La question de notre auditeur est pertinente. Pourquoi, effectivement, l'oncle du président syrien est-il jugé en France alors qu'il aurait détourné de l'argent syrien? Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16:07 minuti, 10 secondi, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Con me tutta la squadra, Antonio Talia, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, quest'oggi Elisabetta Fusconi in assistenza e ritroviamo in regia Filippo Aureggi. 349-238-6666, il numero per porre domande e per commentare il tema che è al cuore di questa puntata di Nessun Luogo Lontano. SMS e WhatsApp, ma anche Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, lì trovate anche la diretta video e lì leggo i vostri commenti. Infine Twitter, i due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero il mio personale che è Giampaz. Oggi è attesa da un tribunale di Parigi una sentenza che potrebbe essere storica per quello che molti hanno etichettato come il macellaio di Hama, responsabile negli anni 80 di una violenta repressione in Siria. Rifat al-Assad è lo zio di Bashar al-Assad. La storia che vi racconteremo oggi è una storia che parla di fondi pubblici siriani che sono stati dirottati in Europa. Non pensate a strani paradisi fiscali, stiamo parlando di Spagna, Francia e Regno Unito. Un patrimonio colossale, centinaia di milioni di euro, riciclaggio di denaro e uno strano filo rosso che lega Damasco, Parigi, Londra e Madrid. Di questo vi parlerò oggi. 349-238-6666 per voi. Adesso iniziamo a sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta negli Stati Uniti. Se sarà eletto presidente degli Stati Uniti, a questo punto dovremo aspettare il prossimo novembre, Joe Biden manterrà la sede dell'ambasciata israeliana in Israele a Gerusalemme. La dichiarazione del candidato democratico è arrivata ieri nel corso di un appuntamento virtuale, ovviamente, come immaginate, di raccolta fondi della sua campagna elettorale. Biden aveva criticato e ha criticato la scelta di Donald Trump di trasferire l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. L'ha definita miope e frivola, perché lo spostamento dell'ambasciata sarebbe dovuto avvenire in un più ampio contesto e un più ampio accordo che avrebbe dovuto coinvolgere tutte le parti. Tuttavia ha precisato che un ulteriore spostamento della stessa ambasciata non sarebbe di nessun aiuto a quello che è un processo di pace assolutamente stagnante tra governo israeliano e autorità nazionale palestinese. Piuttosto Biden si è impegnato a riaprire il consolato statunitense a Gerusalemme Est per coinvolgere in questo modo, in maniera anche più fortemente simbolica, i leader palestinesi. La mia amministrazione, ha aggiunto Biden, esorterà entrambe le parti a prendere provvedimenti per mantenere viva la prospettiva di una soluzione a due stati, ha dichiarato Biden. Dichiarazione forte, lo sapete se ci seguite, se ci ascoltate, dopo le ultime mosse di Donald Trump, anche sentendo la controparte palestinese, in qualche modo la soluzione dei due stati sembra essere totalmente tramontata. Comunque, questa è la sfida che si propone Biden, anche in netto antagonismo, come è evidente, con la politica di Donald Trump. Sulla campagna di Biden, però, si allungano delle ombre che sono particolarmente inquietanti e che nei prossimi mesi potrebbero portare a frutti non proprio golosi per il candidato democratico. In particolare queste ombre hanno un nome. Tara Reid è un ex assistente che un anno fa ha accusato Biden di averla aggredita sessualmente e a inizio aprile ha presentato una denuncia penale nei suoi confronti. Naturalmente vedremo come procederà l'iter anche giudiziario di questa complessa vicenda, che certo che avrà riflessi innanzitutto mediatici e poi probabilmente anche sul consenso popolare di Biden. Stiamo negli Stati Uniti e stiamo a quel braccio di ferro ormai sempre più lungo e dalle tante sfumature, come se i due contendenti lasciassero la stretta ogni tanto, riassestassero gomito, braccia, bicipite e tentassero nuove spinte. Il braccio di ferro è quello fra Donald Trump e Xi Jinping, fra Washington e Pechino. Donald Trump ha detto: la Cina farà di tutto per farmi perdere le elezioni. Questo in un'intervista esclusiva alla Reuters, in cui ha spiegato Donald Trump che il modo in cui il gigante asiatico ha gestito la crisi del coronavirus è la prova che Pechino farà di tutto per fargli perdere le elezioni di novembre. Sapete che oramai da molte settimane Donald Trump non nasconde nelle sue idee di addossare totalmente la responsabilità di ciò che sta avvenendo nel mondo, appunto, alla Cina. Immediata è stata la replica di Pechino. Il portavoce del ministro degli esteri ha precisato che le elezioni sono un affare interno degli Stati Uniti e ha espresso la speranza che gli americani non trascinino nella contesa anche Pechino. E poi però, sempre nella giornata di ieri, Donald Trump a un certo punto se l'è presa con le cosiddette città santuario. Sentite. We'd have to talk about things like sanctuary cities as an example. I think sanctuary cities is something has to be brought up, where people that are criminals are protected. They're protected from prosecution. I think that has to be. E come sentite, queste cosiddette città santuario, grandi metropoli, ma anche stati come California e Colorado, sono quei luoghi dove i criminali sono protetti, si sentono protetti e lo sono di fatto anche rispetto all'autorità giudiziaria. A chi si riferisce? Siccome questi stati sono quelli che si sono opposti alle sue politiche sull'immigrazione, l'inquilino della Casa Bianca si rifà ai migranti, soprattutto irregolari, li definisce criminali e sostanzialmente definisce le città santuario come delle bolle dove l'azione giudiziaria dei magistrati e della polizia non ha alcun effetto. Così Donald Trump ha suggerito che queste città santuario vengano escluse dai fondi di salvataggio federali per fronteggiare l'epidemia di coronavirus. Ancora una volta, a proposito di braccio di ferro, questa volta il governo federale, Donald Trump in particolare, e i singoli governatori. Ci spostiamo in Germania perché è arrivata una dichiarazione molto molto interessante. Il governo tedesco ha messo al bando tutte le attività di Hezbollah. Il ministro dell'interno Horst Seehofer ha vietato oggi l'attività dell'organizzazione terroristica sciita Hezbollah in Germania. L'annuncio è arrivato su Twitter da Steve Ather, che è uno dei portavoce del ministro. Come sapete, Hezbollah, ne abbiamo parlato giusto ieri parlando della situazione libanese, è una fazione politica con una sua ala militare, che è quella che si fa sentire nella valle della Bekaa, che è quella che si fa sentire al confine con Israele e che è quella che si fa sentire persino nel conflitto siriano. Però da tempo Hezbollah ha anche una fazione politica molto forte, è entrata anche nel Parlamento libanese e compie attività anche in Europa. Da tempo sia gli Stati Uniti che Israele facevano pressioni su Berlino affinché bandisse apertamente il gruppo e prendesse posizione. Fino a questo momento il governo della cancelliera Merkel aveva bandito e reso fuori legge, etichettato come fuori legge, solo l'ala militare, e a questo punto c'è un'ulteriore stigmatizzazione e addirittura confinamento politico di Hezbollah. Per il ministro degli esteri israeliano Israel Katz, la decisione della Germania è un significativo passo avanti nella lotta al terrorismo. Andiamo in Corea del Sud adesso, perché per la prima volta da febbraio questo paese non ha registrato nessun nuovo caso di contagio da coronavirus trasmesso localmente. In base ai dati che sono stati diffusi dal Korean Center for Disease Control and Prevention, che monitora tutti i numeri della pandemia, gli unici 4 casi registrati oggi riguardano cittadini coreani che sono arrivati dall'estero. In totale nel paese oggi si sono registrati 10.765 casi, i decessi sono stati 247. Ricordiamo che il primo caso a Seoul era stato registrato il 20 gennaio, con l'esplosione dell'epidemia soltanto a partire da metà febbraio, il picco a fine febbraio, 909 casi al giorno, e poi quella efficace politica di contenimento di cui vi abbiamo dato conto in una delle puntate speciali di Nessun Luogo Lontano, culminate con le elezioni per il rinnovo del Parlamento che vi abbiamo raccontato, che si sono tenute il 15 aprile e, se volete, dal punto di vista della gestione sanitaria e politica è stata in qualche modo per il governo di Moon Jae-in una vera e propria ciliegina sulla torta. L'ultimo dossier che vi sottopongo quest'oggi è un dossier che molto spesso apriamo e sfogliamo. Qui a Nessun Luogo è Lontano ha a che fare con la Turchia, la sua permanenza e la sua appartenenza alla NATO, all'Alleanza Atlantica, e quel infausto per molti acquisto di sistemi missilistici S-400 acquistati dalla Russia. Ricordate quanti mal di pancia ha fatto venire al segretario generale della NATO Stoltenberg, a Donald Trump e anche a tanti osservatori europei, diciamocelo chiaramente. Ecco, quell'acquisto avrebbe dovuto essere attivo da aprile, ma al momento gli S-400 non sono attivi, complice evidentemente la pandemia da coronavirus, il conflitto siriano in cui Erdogan si è infilato, un vero e proprio pantano dal quale francamente non si sa come potrà uscirne, e quindi tutti gli sforzi sono concentrati soprattutto sulla pandemia. Per il momento non si riesce a mettere in piedi, ad allestire quell'ambizioso programma missilistico che ancora una volta, ricordiamo, viene acquisito e acquistato da un paese formalmente avversario della NATO e va però a armare un membro stesso della NATO. Potrebbero quindi, secondo la maggior parte degli osservatori, passare molti mesi prima che gli S-400 diventeranno attivi. Arrivano i primi WhatsApp ed SMS al 349-238-6666. Qualcuno, Marcello, in maniera anche piuttosto forte, l'esempio della Corea del Sud dovrebbe mettere a tacere gli intelligentoni della privacy, così li etichetta, che si appellano alla Costituzione, facendo invece riferimento a quella tracciabilità che è stata messa in atto appunto in Corea del Sud. E poi c'è un altro ascoltatore, uno dei più affezionati: lo sgarbo turco in Libia non invoglia la Russia ad amare Erdogan, ma su questo non ci piove. Questi sono i nostri dossier, ve lo ricordo, sono temi che affrontiamo spesso qui in Nessun Luogo Lontano e che molto ragionevolmente diventeranno nuove puntate di Nessun Luogo Lontano. Adesso però vi racconto una storia, questa storia inizia, per così dire, a Parigi. C'est l'association française Sherpa qui a déposé plainte contre Rifat al-Assad. C'était en 2014. Pour rappel, cette organisation a pour spécialité de défendre et protéger les victimes de crimes économiques et de corruption partout dans le monde. Et puis, la deuxième raison pour laquelle ce procès s'est ouvert à Paris, c'est qu'une importante partie du patrimoine immobilier controversé que s'est constitué Rifat al-Assad est justement situé sur le territoire français. Il primo pezzo di storia parte proprio da qui, ai microfoni un giornalista di Radio France International, era francofono, Radio France International, spiega perché questo processo di cui vi parleremo oggi si sta svolgendo a Parigi. La denuncia è stata fatta dall'associazione francese Sherpa. In più, parte del patrimonio immobiliare di al-Assad, 90 milioni di euro, si trova proprio in Francia. Oggi accendiamo i riflettori su una storia che affonda le sue radici in Siria, Damasco, inizia fin dagli anni 80, ma oggi, perché è attesa la sentenza proprio quest'oggi, si potrebbe riscrivere e chiudere una pagina storico, economico e giudiziaria che getta lunghe ombre sulla famiglia al-Assad. Prendete nota, i luoghi: Siria, Francia, Spagna, Regno Unito, le persone: Rifat al-Assad, zio di Bashar al-Assad, e alcuni procuratori francesi e spagnoli piuttosto agguerriti, tra cui José de la Mata. Poi aggiungete servizi segreti americani e israeliani, aggiungete proprietà e fondi per centinaia di milioni di dollari, shakerate il tutto e la storia è servita. Il processo, di cui attendiamo l'esito proprio quest'oggi, era iniziato nel dicembre del 2019. L'accusa per Rifat al-Assad era di aver utilizzato fondi statali siriani per costruire un vero e proprio impero immobiliare in Francia. Lo zio di Bashar al-Assad, che è stato anche ex vicepresidente, vive in Europa dal suo esilio dalla Siria dopo un fallito tentativo di colpo di Stato negli anni Ottanta contro quello che all'epoca era il presidente siriano Hafez al-Assad, e da allora vive tra Londra e Parigi, secondo i più vicini osservatori, una vita da nababbo. Pensate, sontuosissimo stile di vita, con quattro mogli, una dozzina di figli, che ha sollevato parecchie polemiche. In Francia, peraltro, era ritenuto un possibile avversario, antagonista politico di Bashar al-Assad se, e qua dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, prima dell'appoggio russo, quando Damasco vacillava sotto i colpi della variegata ribellione siriana. Perché la storia ci porta anche anche in Spagna e ci andremo più tardi durante il proseguo della trasmissione, perché un tribunale spagnolo, e il processo è ancora in corso, ha raccomandato che l'ex vicepresidente siriano e altri 13 membri del suo entourage siano processati con l'accusa di organizzazione criminale e riciclaggio di denaro sporco. E qua veniamo a quell'altro giudice, il combattivo José de la Mata. Sostanzialmente l'accusa, secondo de la Mata, è che Rifat Assad e 8 figli abbiano riciclato costantemente dal 1980 denaro proveniente dalla Siria in diversi paesi, tra cui appunto la Spagna. E allora ricominciamo dalla Francia, lo facciamo con la voce di Laura Rousseau, responsabile programma Flussi Finanziari Illeciti di Sherpa. È un'associazione non governativa composta da avvocati che si occupano di patrimoni illeciti. A lei facciamo raccontare come è iniziata questa indagine su questo incredibile caso di malversazione di Al-Assad. Sentite. La nostra associazione si interessa da tempo al tema dei beni ottenuti illecitamente. Nel 2007 abbiamo iniziato a presentare esposti e denunce insieme ad altre associazioni non governative. Siamo riusciti pian piano a consolidare questa nozione giuridica, ossia beni mobili e immobili che sono stati ottenuti sottraendo denaro ai fondi pubblici di uno Stato. La campagna successiva è montata grazie a diversi articoli pubblicati sulla stampa, finché alcuni parlamentari non hanno iniziato a chiedere il congelamento dei beni appartenenti o riconducibili alla famiglia Assad in Francia. Abbiamo acquisito nel tempo delle prove sull'assoluta disparità tra le entrate ufficiali di Rifat Al-Assad e la consistenza del suo patrimonio immobiliare, segnale di un'acquisizione attraverso metodi fraudolenti. In Francia il patrimonio di Rifat Al-Assad vale circa 100 milioni di euro e in Spagna raggiunge i 600 milioni. Ogni parte coinvolta nella nostra indagine ha chiuso il proprio dossier e si è poi costituita parte civile. Quindi abbiamo depositato una denuncia comune nel 2013 e il processo ha finalmente avuto inizio nel 2019. L'incriminazione è stata ritardata dalla crisi del Covid, ma è stata richiesta la pena di 4 anni di prigione, una multa da 10 milioni di euro e il sequestro dei beni indicati nell'inchiesta, tra cui degli alberghi di lusso e un castello. Questa una parte del ricchissimo patrimonio che lo zio di Bashar al-Assad è riuscito a consolidare nel corso di tanti decenni. Proprio lui, il cosiddetto macellaio di Hama, responsabile di una cruenta repressione di quelle anime ribelli che fin dagli anni 80 squassavano il territorio siriano. La voce che avete sentito è quella di Laura Rousseau, responsabile del programma Flussi Finanziari di Illeciti di Sherpa. È una ONG con una vocazione particolare, sono tutti avvocati e indagano e fanno attività di lobbying, di pressione anche politica, che si vadano a scoperchiare tanti casi come quello appunto di Al-Assad, e si occupano evidentemente di patrimoni illeciti. Alcuni ascoltatori fanno riferimento a quello che è stato anche un recente passato. Arafat si parlava di fondi in Francia. C'è un lungo pezzo pubblicato su Deutsche Welle nella versione inglese del sito che va a ricapitolare un po' questa strana tendenza, lo dico evidentemente usando un eufemismo ed edulcorando quella che è la situazione, di molti dittatori nonché grandi magnati del Golfo di investire in Europa. Questo a dispetto di quello che si potrebbe pensare. Forse immediatamente tutti noi penseremmo a paradisi fiscali, a fondi alle isole Cayman. Ecco, niente di tutto questo. La Costa del Sol, per esempio, degli alberghi costruiti in oasi naturali, riserve protette, sembra essere un business che ha fatto e fa gola a tanti, non soltanto Al-Assad, si parla anche di Gheddafi, si parlano di dittatori africani. Evidentemente una tendenza consolidata nel tempo. Ma come si fanno a ottenere le prove sull'origine illecita di queste proprietà? 700 milioni di euro, almeno quelli visibili, tra Francia e Spagna, ma anche una parte in Regno Unito. Come ha fatto Sherpa, questa associazione di avvocati, a lavorare in maniera così precisa sulle proprietà di al-Assad. Sentite ancora Laura Rousseau. Grâce à l'utilisation de paradis fiscaux, Rifat al-Assad a occulté l'origine de ses biens. Grazie all'impiego di schermi nei paradisi fiscali, Rifat al-Assad era riuscito a occultare la natura delle sue proprietà. Questo stratagemma per nasconderle ha reso particolarmente complicati i metodi per provare la riconducibilità delle proprietà ad Assad. Proprio per rimediare a questa difficoltà, nel 2013 la legge francese ha introdotto una presunzione di origine illecita dei beni e delle proprietà. Questa presunzione ha permesso di considerare che se lo stile di vita e la sontuosità delle proprietà di un soggetto non corrispondono alle rendite ufficiali, è possibile avanzare dei sospetti sulla legittimità dei fondi. Abbiamo perseguito questa linea davanti al giudice a partire dall'inizio del processo nel 2019 e siamo riusciti a dimostrare la riconducibilità di certe proprietà a Rifat al-Assad, dato che Assad ne aveva la disponibilità senza essere in grado di spiegare l'origine di questi beni. Ancora una volta la voce di Laura Rousseau, di Sherpa, al centro della puntata di Nessun Luogo Lontano. C'è la controversa figura di Rifat al-Assad, il macellaio di Hama, quello che poteva essere il grande contendente, antagonista di Bashar al-Assad. Così un ascoltatore al 349-238-6666 avanza un'ipotesi: probabilmente i francesi avevano qualche progetto per lui in Siria. Una volta che la Russia ha appoggiato Bashar, i francesi si saranno accorti che non c'era più bisogno di lui, e questa mi sembra un'analisi estremamente accorta. 349-238-6666 per i vostri messaggi, per dare a voce quelli che sono i vostri commenti e i vostri dubbi. Ancora la voce di Laura Rousseau, questa volta perché questo caso presenta degli aspetti inediti. Il gerarca, a tutti gli effetti, un ex vicepresidente di un regime così sanguinario, viene processato per riciclaggio. Forse dobbiamo fare qualche riflessione sulla natura del diritto internazionale. Ricorda molto una storia, fatte salve le debite proporzioni, quella di Al Capone. Si cercò di incastrarlo per illeciti finanziari perché l'associazione mafiosa quella non si riusciva a provare. Sentite la Rousseau ancora. Sherpa ha rappelato lors du procès, mais aussi par le biais d'une tribune, que cette affaire est unique. Si tratta di un caso unico perché è la prima volta nella storia che si riesce a processare un esponente del clan Assad, il clan che governa la Siria come una proprietà personale da oltre 40 anni e che ha reso il paese un inferno. Questo processo, che ha come imputato lo zio di Bashar al-Assad, ha assunto una dimensione particolare. Soprattutto nel contesto siriano attuale, mostra l'urgenza di mettere in piedi, non solo in Francia, ma in tutti i paesi europei, un quadro giuridico comune capace di restituire a un popolo i beni che sono stati sottratti da un regime. Penso che si debba affrontare una riflessione molto ampia sul fronte del diritto europeo e internazionale, rivolta soprattutto a mettere in luce l'impiego dei paradisi fiscali come luoghi dove riciclare denaro sporco in assoluta impunità. L'utilizzazione di queste vere e proprie fabbriche del crimine deve essere combattuta a livello internazionale per avere qualche efficacia. Remise en cause e combattue au niveau international pour plus d'efficacité. La voce di Laura Rousseau, responsabile programma flussi finanziari illeciti di Sherpa, questa associazione francese di avvocati che si occupano appunto di patrimoni illeciti. Oggi attesa alla sentenza per quello che riguarda quei 100 milioni di euro di valori immobiliari, di proprietà, ma non solo, finiti da Damasco fino a Parigi durante tutti gli anni 80 e la storia più recente, fondi occultati allo Stato siriano a tutti gli effetti. È una storia che ha una coloritura finanziaria ma anche politica. Tra pochissimo sentirete in 90 secondi, come amiamo fare noi, il profilo di Rifat al-Assad e poi introdurrò l'ospite di quest'oggi. Adesso la borsa. Nessun luogo è lontano. Ancora Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Parto dalle vostre voci arrivate al 349-238-6666. Ricordo che in Occidente il capostipite della famiglia Assad era glorificato, lo chiamavano il leone di Damasco, aveva ammazzato 20.000 persone, aveva asfaltato i loro corpi. Una famiglia esemplare, così un ascoltatore che torna indietro con la memoria avvezza al-Assad, morto nel 2000, poi lì è successo Bashar al-Assad. Ma quest'oggi i riflettori sono puntati sullo zio di Bashar al-Assad, Rifat al-Assad, lo ripeto. Oggi una sentenza del Tribunale di Parigi potrebbe inchiodare l'82enne a quelle che sono state le sue responsabilità. Ha giocato anche un ruolo chiave durante la storia. Ascoltiamo in 90 secondi chi era Rifat al-Assad. Rifat al-Assad è fratello minore del defunto capo di Stato Hafiz al-Assad, nonché zio dell'attuale presidente siriano Bashar al-Assad. È tristemente noto alle cronache con l'epiteto di «il macellaio di Hama», dopo che nel 1982, su direttiva del fratello, guidò la repressione della rivolta contro il governo alawita e socialista degli Assad nella cittadina a maggioranza sunnita. Le brutalità dell'esercito siriano e il numero dei morti di quell'episodio non sono mai stati chiariti, ma stime parlano di più di 20.000 vittime. Forte del prestigio tra le forze armate e dei problemi di salute del fratello, Rifat tentò nel 1984 un colpo di Stato, che venne però bloccato e fu costretto ad abbandonare la Siria. Come meta del suo esilio, Rifat scelse dapprima la Svizzera e in seguito Parigi, dove ottenne protezione da François Mitterrand, che gli conferì l'onorificenza della Legion d'Onore. Gli anni successivi lo videro spostarsi tra Siria, Francia e Spagna, per poi stabilirsi a Londra e nuovamente a Parigi, spesso accompagnato dalle quattro mogli e 16 figli, nonché da una folta schiera di entourage. Le relazioni con il nipote sono sempre state ambigue. In Francia protestò vivacemente in occasione della successione di Bashar alla guida del paese, ma contemporaneamente sono diversi i sospetti che l'attuale presidente siriano abbia utilizzato lo zio per spostare capitali all'estero. Personaggio carismatico e controverso, Rifat ha vissuto sempre nel lusso, gestendo da diverse capitali europee il suo impero di beni immobili, attività commerciali e televisioni. Questo il profilo di Rifat al-Assad. Buongiorno e benvenuta nel suo luogo lontano a Marina Calculli, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente all'Università di Leiden. Calculli, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno a voi. Allora, la prima domanda è: che cosa ci racconta, che cosa ci svela questa inchiesta non soltanto dell'impero degli Assad, ma anche delle relazioni all'interno di questa potentissima famiglia, spesso vissuta all'Occidente come un blocco monolitico? Ma la storia di Rifat, intanto questo processo, c'è da dire, arriva forse un po' troppo tardi. Rifat ha 82 anni e, come giustamente ricordava il vostro servizio, subito dopo essersi macchiato del massacro di Hama, lui allora era a capo degli squadroni della Saraya al-Difaa, un corpo d'élite della sicurezza interna, ma poi ebbe un ruolo cruciale anche nei massacri nella prigione di Tadmur, dove c'erano moltissimi prigionieri politici. Sì. È una prigione tra l'altro famosa, che alcuni ricorderanno, fu fatta saltare in aria dallo Stato Islamico qualche anno fa, ed è anche un peccato perché era insomma un monumento purtroppo della brutalità di questo regime, che forse manteneva insomma la memoria anche di tutto questo. E quindi è bizzarro che un uomo del genere, che negli anni Ottanta fu invece accolto con la Legion d'Honneur in Francia da Mitterrand, andava a caccia con Mitterrand, venga a 82 anni processato per frode fiscale. Questa è una storia già nota. Sì. L'impero di Rifat si è costruito anche nel suo esilio, in qualche modo tutti questi fondi pubblici siriani, che di cui lui si è sicuramente, quasi sicuramente appropriato, come tra l'altro ha mostrato appunto l'inchiesta di Sherpa, sì, sono dei soldi che sono soldi che sono stati sottratti allo Stato siriano non senza la complicità del regime. Allora, diciamo, negli anni 80, negli anni 90, suo fratello Hafez al-Assad, che voleva allontanarlo per mantenere la stabilità del potere interno senza spaccare una famiglia che chiaramente regge il potere, sì, in Siria. Sì. E dopo sicuramente Rifat al-Assad ha continuato a sguazzare, diciamo, in questo impero, anche grazie, bisogna dirlo, anche grazie alla protezione internazionale. Questi regimi, sì, non, sì, sarebbero così longevi se non avessero in qualche modo anche la protezione spesso dei paesi europei, dei paesi occidentali. Tutti questi fondi non sarebbe possibile per queste figure di spicco, questi grandi criminali di guerra, di condurre delle vite così lussuriose in Occidente, sì, se anche gli stati occidentali non chiudessero un occhio. Sì. Marina Calculli, lo ricordo, insegna relazioni internazionali del Medio Oriente, Università di Leiden, attenta osservatrice e analista su tutto ciò che accade nel in Medio Oriente, appunto, in qualche modo ha risposto anche a un ascoltatore che via SMS al 349-238-6666 diceva: i paradisi fiscali sono i primi complici di tale fenomeno. Qua non c'è nessun paradiso fiscale, siamo in Spagna, siamo a Madrid, siamo a Parigi, e quindi più che altro, come sottolineava molto bene Calculli, c'è stata una compiaciuta connivenza politica in cui, come qualche altro ascoltatore sussurrava, probabilmente Rifat al-Assad poteva essere comodo, un asso nella manica da giocarsi politicamente in tempi diversi. Ecco, torniamo a Marina Calculli, se le va su quello che è il ruolo. Le vicende di al-Assad sono sempre state super politicizzate, anche all'estero, anche in Italia, come se il dossier Assad fosse una dei dossier più divisivi. C'è una parte anche politicamente schierata in Italia che li considera dei veri baluardi di democrazia, difensori soprattutto dei cristiani sotto attacco, e chi invece li addita come dei criminali impenitenti e che hanno compiuto mille misfatti. E dov'è la verità in un quadrante così complesso e dai mille chiaroscuri come quello siriano? Ma questo più che altro ci dice anche tanto della abilità strategica di questi regimi totalitari. In questo il regime di Assad ha particolarmente successo, è particolarmente efficace nel manipolare diverse narrazioni. Negli anni 70, negli anni 80, ma in realtà anche fino agli ultimi anni, direi fino adesso, il regime ha cercato di ingraziarsi una parte della, se vogliamo, della sinistra transnazionale, presentandosi come un po' il socialista arabo, però sì, come la vicenda di Rifat al-Assad ci dice, come quella di molti altri membri del regime, tra cui il cugino di Bashar al-Assad, Rami Makhlouf, che invece è più giovane e anche molto più attivo nel mantenere il regime. Chiaramente è una macchina del potere che sguazza perfettamente nel capitalismo internazionale, neoliberista, quindi non ha niente, sì, diciamo, sì, sì, di a suon di speculazioni immobiliari e finanziarie, esatto, quindi proprio. E poi dall'altro lato, sicuramente negli ultimi anni, dopo l'inizio della guerra in Siria, il regime di Assad ha strumentalizzato anche molto la lotta al terrorismo islamista, che è un tema molto caro all'Occidente sì, in generale, e della protezione dei cristiani, che invece ha utilizzato a suo piacimento in varie fasi della storia, proprio per ingraziarsi invece quella parte dell'opinione pubblica, se vogliamo anche più conservatrice, che è pronta, diciamo, a giustificare il regime in nome della lotta al terrorismo islamista. Ma sì, questi sono espedienti, bisogna sempre ricordarlo, bisogna fare una distinzione tra quelle che sono le pratiche e quelle che sono i discorsi, sì, però effettivamente questi sono discorsi molto efficaci che hanno permesso al regime di compiere crimini brutali, sì, ma legittimandosi con queste narrazioni, soprattutto agli occhi di opinioni pubbliche occidentali, che hanno comunque un certo effetto anche sui governi, quindi sulle politiche dei governi occidentali in questo caso sulla Siria. Sì, premesso che quanto casomai valesse contasse qualcosa, la mia opinione trovo particolarmente irritante, sono profondamente allergico a questa retorica dei cristiani sotto attacco, semplicemente perché la prima vittima dell'estremismo islamico è la popolazione musulmana, quindi trovo assolutamente strumentale questo aspetto, che c'è assolutamente, è inutile negarlo, ma questa sua strumentalizzazione lo trovo un filino stucchevole. Siamo con Marina Calculli per cercare di analizzare e mettere adesso un po' il grand'angolo, seppur con brevità. C'è Calculli, in questo momento sul terreno una situazione di stallo incredibile, Idlib non sta cadendo, forse Bashar al-Assad sperava con il supporto aereo russo di farcela. I turchi si sono messi di traverso, per usare un eufemismo. La fine di Idlib è già scritta o lei vede la possibilità di un, non dico di una partizione della Siria, cosa che nei fatti si era già quasi consolidata? Insomma, per dirle in altre parole, Assad metterà la quinta, vuole Idlib a tutti i costi, sì o no? Assad vuole Idlib a tutti i costi perché sarebbe semplicemente il completamento di una strategia che già si era in parte realizzata nel 2018, quando sostanzialmente tutte le altre aree assediate della Siria erano state, tra virgolette, liberate, in realtà erano state riconquistate dal regime e tutti i, diciamo, gli oppositori politici, anche i capi milizie, erano stati spostati a Idlib, che è diventata adesso una sorta di, purtroppo, di discarica di tutta l'opposizione siriana, compresa anche quella più, se vogliamo, più genuina, quella che, con cui saremo più nei confronti della quale avremo più simpatia, ma anche una, un campo rifugiati a cielo aperto. Quindi da parte di Assad c'è questa, c'è sicuramente questa volontà politica. È chiaro che Assad è stato molto attento a mantenere, a portare avanti questa strategia sempre senza, cioè sempre con un occhio agli equilibri internazionali, perché c'è la Turchia che preme da una parte, c'è la Russia e ci sono gli Stati Uniti, e Assad è molto attento, come è stato attento in tutti questi anni, altrimenti non si spiegherebbe neanche il fatto che è ancora lì al potere, a diciamo spingere, tirare la corda senza però scomodare troppo, irritare troppo sia gli alleati che i diciamo gli oppositori internazionali, e a cercare di un cerchio bottismo alla siriana, se mi è consentita questa desueta espressione. Le faccio l'ultima domanda, poi la lascio al suo lavoro nel ringraziarla per questo contributo, quasi uno slogan. Marina Calculli, è possibile che dopo la riunificazione, se Bashar al-Assad ce la farà a prendere Idlib, qualcuno chieda il conto alla Siria e in sostanza dica Assad, hai fatto il tuo tempo, adesso è il momento di mettere qualcun altro? Sto pensando a Mosca, per esempio, in questo momento. Ma che ci possa essere a un certo punto un cambio interno è possibile, però il problema è che se Assad vince la guerra sostanzialmente, e come sta succedendo anche con il beneplacito della comunità internazionale, qualsiasi cambio interno ci possa essere sarà un cambio cosmetico che non cambierà la struttura del regime. Se invece appunto il sogno della ricostruzione della Siria come un ritorno ad uno status quo ante, cioè con il regime attuale al potere, e quindi la ricostituzione di un regime totalitario non ci sarà, allora a quel punto si dovranno ipotizzare altri scenari che però adesso sono abbastanza lontani. Più plausibile è una vittoria di Assad, che sicuramente è ancora tutta da definire, perché ci sono diversi interessi internazionali che ancora non si sono messi d'accordo sulla Siria, purtroppo. Grazie mille Marina Calculli, lo ricordo, docente di relazioni internazionali del Medio Oriente, Università di Leiden, per questa fotografia così ben incisa dai colori così vividi che ci ha restituito della crisi siriana. Buona giornata e buon lavoro, Calculli. Noi andiamo velocissimi sulle strade italiane e poi apriremo l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, vi porto in Spagna sempre con questa storia e risponderò anche a qualche ascoltatore che non lesina gli attacchi. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. Dei Tanjare Daghette, che sono una band, guardate un po', metal. Abbiamo trovato anche in Siria, dissidenza siriana, suon di metal, l'ultimo baffo per quest'oggi, così un po' oscuro. Torno ai vostri messaggi, come vi dicevo, 349-238-6666. La band, peraltro, dissidente, nel senso che è dovuta scappare dalla Siria subito dopo la rivoluzione. Questo programma è sempre più fazioso. Ora neghi anche le persecuzioni dei cristiani nel mondo, non hai mai parlato di Hazem Bibi, né delle chiese abbattute in Cina, delle stragi di cristiani in Nigeria e Sudan. Così un ascoltatore, che peraltro ha un magnifico teschio nel suo profilo, nell'emoticon del profilo, e apprezzo tantissimo. I cristiani nei paesi islamici sono sotto attacco e discriminati a prescindere dallo Stato islamico. Vergognati delle parole che hai detto, così un altro ascoltatore. Però riascoltatevi quello che ho detto: non ho mai detto che nego la persecuzione dei cristiani, ho detto che trovo stucchevole e pretestuosa la strumentalizzazione politica di questo aspetto della realtà, che è un pezzo della realtà, perché le maggiori vittime dell'estremismo islamico sono i musulmani stessi, e questo è confermato dalle cifre, questo è un fatto in quasi tutti i quadranti in cui vi sono estremisti islamici. Non sto negando questa cosa, ho detto che mi dà fastidio la strumentalizzazione politica, mi dà fastidio che sotto il cappello del grande baluardo difensore dei cristiani in Siria vengano cancellati tutti i chiaroscuri della dinastia Assad, che sono evidenti e sono scritti nei libri di storia. Se non ammettete e non abbracciate questa complessità, siamo su due programmi diversi, appunto. No, linee d'ombra diverse. Vabbè, insomma, avete capito. Allora, Filippo Reggi, aiutami, spostiamoci in Spagna. Stavolta con la voce di Juan Carlos Espinosa, il corrispondente del Medio Oriente di El País, perché, come vi dicevamo, c'è un altro aspetto, altro che 100 milioni di euro di investimenti fraudolenti in Francia. Qua in Spagna, Rafita al-Assad ha un patrimonio da 600 milioni di euro. A che punto siamo con questo processo? Sentite Juan Carlos Espinosa, corrispondente Medio Oriente di El País. Rifat el-Assad, tío del presidente Bashar al-Assad, de Siria, y hermano del dictador Hafez al-Assad. Rifat al-Assad, zio del presidente siriano Bashar al-Assad e fratello del dittatore Hafez al-Assad, si trova attualmente sotto indagine da parte dell'Audiencia Nacional, alto tribunale di grado inferiore solo alla Corte Suprema, che si occupa di casi di terrorismo, corruzione e traffico di droga su scala internazionale. Le indagini sono iniziate dopo lunghe investigazioni lo scorso novembre e si prevede che il processo inizi entro quest'anno. In relazione però a come sarà organizzata l'attività giudiziaria in Spagna a seguito della pandemia. Intanto è emerso che almeno due prestanome o intermediari che dipendevano direttamente da Rifat al-Assad hanno operato come suoi agenti sul territorio spagnolo nella gestione di grandi investimenti, specialmente sulla costa del Sol nel Mediterraneo. In particolare la costa del Sol nel Mediterraneo. La voce di Juan Carlos Espinosa, corrispondente Medio Oriente di El País, dalla sua voce alla vostra tramite gli SMS e i WhatsApp al 349 238-6666. Lei nega, scrive un ascoltatore, la necessità di difesa dei diritti della cristianità, o se lo preferisce, degli interessi della cristianità. Ma non lo sto affatto negando, sto semplicemente dicendo che trovo sviante e intellettualmente disonesto dire che li Bashar al-Assad sono da santificare perché sono il baluardo e la difesa del multiconfessionalismo, dei cristiani, eccetera, eccetera, perché è un pezzo solo della realtà. Se noi prendiamo solo un pezzo e l'assolutizziamo, stiamo perdendo di vista la complessità di quel fenomeno. Non ho mai negato questo aspetto e non ho mai negato le stragi dei cristiani. Se andate a risentire le puntate, sono 10 anni che vi raccontiamo storie tutti le estati, tutti gli agosto, ce ne siamo ampiamente occupati, come no. Allora, c'è qualcuno che torna anche sulla situazione dei cristiani copti, per esempio in Egitto, e come se ce ne siamo occupati. E poi c'è qualcun altro che tra un improperio e un'offesa e l'altra dice di prima devo studiare e poi ripassare, la colpa è mia, di chi mi paga in questa radio per sparare. E voi immaginate messaggi del genere, direi che non è il caso di rispondere. Allora, vi faccio sentire ancora la voce di Rifat al-Assad, scusatemi, di Juan Carlos Espinosa, corrispondente del Medio Oriente di El País. Perché proprio la Spagna? Un ascoltatore prima al 349-238-6666 diceva la colpa, la responsabilità è dei paradisi fiscali. Beh, la Spagna non è esattamente un paradiso fiscale. Perché lo zio di al-Assad ha deciso di riciclare o reinvestire, mettiamola così, 600 milioni di euro nella Costa del Sol? Sentite Juan Carlos Espinosa. Después de haber intentado establecerse en Suiza, Rifat al-Assad se desplazó a España. Dopo aver tentato di stabilirsi in Svizzera negli anni Ottanta, Rifat al-Assad si è trasferito in Spagna, da dove ha gestito tutti i suoi affari economici in Europa, con investimenti nel Regno Unito e in Francia. In Spagna, Rifat ha concentrato la maggior parte dei suoi investimenti, per lo più di natura immobiliare, nella Costa del Sol. L'atto del processo emesso dal Tribunale Nazionale in Spagna attribuisce a Rifat proprietà per un valore di 695 milioni di euro. Il patrimonio è costituito fondamentalmente da appartamenti, parcheggi, ville, chalet, tutti i tipi di immobili in una delle più importanti aree turistiche della costa mediterranea e dove sono concentrate grandi operazioni di riciclaggio di denaro a livello internazionale. Un ascoltatore su Facebook: rimuoviamo allora Assad come abbiamo rimosso Gheddafi da Libia, da allora la Libia è un paradiso terrestre. Ma gentile ascoltatore, io non sto dicendo che dobbiamo rimuovere Assad, da quale pulpito dovrebbe arrivare un invito del genere? Possiamo o no fotografare una situazione di una famiglia che per anni ha retto il paese e si è macchiata anche di crimini, che ha divertito, per usare un anglicismo, almeno 700 milioni di euro tra Francia, Spagna e Regno Unito, oppure devo essere accusato di essere contro la difesa dei cristiani e contro Assad perché fotografiamo e raccontiamo delle inchieste in corso? Allora, diamo un'idea di quello che è l'impero e i fondi sui quali sarà processato anche in Spagna Rifat al-Assad. Sente ancora il collega del País. Rifat al-Assad eligió España in un primer momento. Secondo informazioni non ufficiali, Rifat al-Assad inizialmente ha scelto la Spagna grazie ai contatti avuti con servizi segreti stranieri. A Rifat al-Assad si attribuisce una certa vicinanza alla CIA e al Mossad israeliano. Queste accuse sono state consolidate anche da Damasco, dove ora Rifat è considerato un fuorilegge, che si è appropriato dei fondi delle casse statali. In qualità di braccio destro di suo fratello, Hafez al-Assad ha partecipato alle uccisioni degli oppositori e ha controllato diverse imprese che gli hanno generato importanti profitti. Profitti che sono stati trasferiti all'estero, fondamentalmente a beneficio della sua famiglia. Quando ha rotto i legami con la sua famiglia, si è impossessato di parte di questi profitti. Ha infatti cercato di succedere, senza successo, al nipote Bashar al-Assad, e anche durante la guerra civile ha cercato di entrare in contatto con settori dell'opposizione. Tutte queste manovre non hanno nascosto il fatto che questo è lo sfondo di un personaggio corrotto, con oscuri collegamenti con i servizi segreti internazionali, e che ha potuto contare su una certa protezione da parte dell'apparato statale. In particolare in Francia si aprì un'inchiesta su di lui nel 2016. Anche a Londra ci sono indagini sulle sue proprietà. E ora ci si concentra, come ho già detto, su Marbella e sulla Costa del Sol, dove Rifat al-Assad possiede 244 posti auto, immobili, terreni e una proprietà di lusso del valore di 60 milioni di euro. Un portafoglio di immobili che vengono affittati e che generano grandi profitti. Rifat distribuisce tutto questo denaro nero alla sua famiglia e può permettersi un alto tenore di vita. Ci sono stati dei sequestri di fondi e conti bancari, ma gran parte di questa fortuna nascosta è scomparsa. Di tutta questa fortuna occulta sigue desaparecida. Così Juan Carlos Espinosa, che è il corrispondente al Medio Oriente di El País, che ci ha dato l'altro pezzo della storia. C'era quello francese, c'era quello spagnolo e poi con Marina Calculli l'aspetto siriano. Tanti messaggi arrivati al 349-238-6666. Torneremo su questo aspetto perché il dossier siriano forse è uno dei più divisivi. A questo punto Filippo Reggi mi fa segno e mi lancia un avvertimento. Che è quello di chiudere questa puntata, ringraziare tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, l'appuntamento è per domani ore 16, intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.